Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata, visto che già me lo chiedete, che avrà, ritorna nel 2017 la poco invidiabile classifica degli sprechi della pubblica amministrazione, ma puntata in cui ci occuperemo anche di mercati. Oggi tiene banco, come ricordavano i nostri GR24, la vicenda Renault. Attenzione, qui ci sono sospetti, ci sono tre giudici francesi che indagheranno sui dispositivi utilizzati dalla Renault per controllare le emissioni dei suoi motori diesel, che si sospetta siano truccati. La notizia ha fatto calare pesantemente il titolo in borsa, è arrivato a perdere il 4%, adesso cede Renault a Piazza Affari il 5,40%. Devo dire molto più forte il tonfo di ieri di Fiat, ma lì c'era notizia, non solo ipotesi. Fiat oggi aveva tentato un recupero anche abbastanza significativo. Devo dire che per quello che riguarda Exor, il recupero del 5,60% la controllante. Fiat Chrysler adesso guadagna il 3,5%, quindi insomma un recupero molto parziale rispetto al tonfo di ieri. Ma su questo vedremo cosa arriverà dalla Francia. La Renault ha detto che rispetta la legislazione francese ed europea, i veicoli sono sempre stati omologati conformemente alla legge, nessuna frode sulle emissioni. Faremo anche il punto, perché invito chi non l'avesse fatto a leggere Sole 24 Ore oggi, che inizia un'inchiesta, un viaggio inchiesta sui 10 anni della grande crisi 2008-2017, andando ad analizzare che cosa è successo al mondo. Detta così fa anche impressione, perché sembra ieri, sono passati quasi 10 anni e quindi uno è invecchiato sicuramente, bene o male poi lo stabiliremo, ma sicuramente è cambiato lo scenario circostante. Non è solo la crisi in senso finanziario, quella che 2008-2010, è proprio una crisi che si è innestata in un cambio di modelli produttivi, in un cambio di paradigmi, come dicono gli economisti e i sociologi, e in un cambio di quello che è l'asse produttivo a livello mondiale, che si stava già spostando ben prima del 2008 verso le economie emergenti. Interessante notare, lo faremo dopo, quali paesi abbiano recuperato e con che entità, e chi invece, ahimè, l'Italia, non si è riuscita a recuperare i livelli precedenti alla crisi. Ma ripeto, è cambiato la geografia economica a livello mondiale, non è solo la crisi finanziaria in senso stretto, quella innescata dai derivati e dagli strumenti tossici in mano alle grandi banche d'affari mondiali. E di questo parleremo. Per quello che riguarda la borsa, è vero che sul CAC 40, sull'indice francese, Renault perde il 3%, infatti abbiamo definito un calo relativamente basso. A Milano perde il 5,30, ma insomma il calo è un calo, ma non un tonfo. Questo non ci sono dubbi, visto che ci troviamo la borsa più 8,55 UbiBanca, Banco Popolare di Banco BPM, io ogni tanto continuo a chiamarlo nel vecchio modo, Banco BPM più 5,30%, Biperbanca più 5,20%, Unicredit più 4,11%, Mediolanum più 3,50%. Tra i non bancari segnalo appunto Fiat Chrysler e anche Steam Microelectronics più 2,80%, Mediobanca più 3,30%, Buzzi Unicem più 2,80%. Tra chi perde, solo Leonardo, e perde anche poco, lo 0,60%, Monte dei Paschi resta infatti sospesa, Generali guadagna poco, lo 0,1%, euro su dollaro a 1,06, complessivamente l'indice di Milano guadagna l'1,50%, mentre per quello che riguarda gli altri indici a livello europeo, Parigi più 1%, Francoforte più 0,70%, Londra più 0,40%. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp. Rapidamente le notizie in breve. Allora, andiamo dagli ultimi, le ultime agenzie. Allora, oggi fonti vicine alle quattro good bank presiedute da Roberto Nicastro Dicono che stiano lavorando intensamente anche con BPER, Banca Popolare Emilia Romagna, per la cessione di Cassa di Risparmio di Ferrara. Ieri infatti è arrivato via libera andare avanti sull'operazione delle altre tre banche, quindi Chieti, Etruria e Marche con UbiBanca, e manca adesso Cassa di Risparmio di Ferrara con BPER. Il termine per aderire scade il 19 gennaio, se verranno 300 adesioni per permettere di chiudere l'intesa con la Popolare Emilia Romagna. Ancora per quello che riguarda la giornata di carattere internazionale, il dato oggi sulla Cina non è bello, mi riferisco all'export cinese, meno 6%, il saldo della bilancia commerciale cinese scende a 40,8 miliardi di dollari, le importazioni in Cina sono invece salite del 3%, appunto, quindi il saldo di dicembre si attesta a 40 miliardi di dollari contro i 44 del mese precedente. Nell'intero 2016 le esportazioni cinesi sono scese del 7,7%, che è un dato bello significativo, mentre le importazioni hanno fatto meno 5,5%. Il surplus resta molto forte, la differenza tra quanto la Cina esporta e quanto la Cina importa resta assolutamente a vantaggio delle esportazioni, però in calo del 7% a 510 miliardi di dollari. Ed emergono segnali critici in vista delle possibili tensioni commerciali che potrebbero esserci sotto la presidenza di Trump, visto che gli Stati Uniti costituiscono la prima voce per l'interscambio cinese. E a proposito di Trump, oggi il presidente eletto, facendo un gioco di parole tra affordable and unaffordable, insomma, ha detto che l'Obamacare, la riforma sanitaria lanciata dall'ex quasi presidente Obama, è insostenibile, presto sarà storia, sarà dimenticata. Ancora poi molti bilanci oggi di banche d'affari. Per quello che riguarda JP Morgan, l'utile nel quarto trimestre sale del 24% sopra le attese, e quindi l'utile netto è stato pari a 6 miliardi e 730 milioni di dollari. Altra banca d'affari che oggi dà la trimestrale è Bank of America, anche qui l'utile è volato del 43% con un aumento dei ricavi dovuto alle attività di trading e una riduzione dei costi. Wells Fargo invece risente dello scandalo dei conti finti aperti all'insaputa dei clienti, l'utile c'è ed è bello pesante a 5 miliardi e 320 milioni di euro di dollari, scusatemi, ma in calo di circa 300 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Qualche segnale di ripresa arriva invece dall'economia brasiliana, che è stata massacrata in questi anni da una recessione pesantissima. A novembre 2016 il PIL dovrebbe aver fatto più 0,2%, e è chiaro che quest'anno, dunque l'anno scorso, ha fatto meno 3,8%, nel 2015 il Brasile ha fatto meno 3,8%, quest'anno dovrebbe fare meno 3,5%, quindi sempre una pesante recessione. Gli analisti però scommettono che questi segnali possono essere, diciamo, possono rappresentare il giro di boa almeno. E a mercati chiusi è attesa, e qui veniamo all'Italia, la decisione dell'agenzia di rating canadese DBRS sull'Italia. È l'unica agenzia che assegna ancora una A al debito italiano. Perché è importante? Perché è una delle agenzie a cui fa riferimento la Banca Centrale Europea nel valutare lo stato di salute di un paese, per ampliare, ricorderete, le polemiche sull'agenzia di rating, i conflitti di interesse e quant'altro. Un'eventuale riduzione del voto all'Italia farebbe scattare in automatico un aumento della trattenuta, chiamiamola così, che la Banca Centrale Europea chiede alle banche italiane che consegnano titoli impegno in cambio di liquidità. Si chiama haircut, sarebbe dallo 0,5 al 6% per un bot, e per un BTP a lunga scadenza sarebbe dal 5 al 13%.

a rischio di irregolarità, quindi lo scarto tra tessere dichiarate della categoria e contributi effettivi ricevuti dalla Confederazione degli iscritti sulla base delle verifiche effettuate in questi mesi, visto che la parte delle accise sul pubblico impiego conta più di 300.000 tesserati. Oh, una notizia di cronaca riguarda 9 dipendenti dell'ENAC, quindi Ente Nazionale Aviazione Civile, in servizio presso la direzione dell'aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi a Palermo. Dopo la conclusione delle indagini della Guardia di Finanza, che si chiamava Prendo il Volo, con un po' di ironia, prendo il volo perché erano assenteisti, prendevano il volo dall'ufficio, l'indagine ha smascherato un collaudato meccanismo basato sulla sistematica assenza degli indagati dal posto di lavoro, che facevano invece figurare la loro presenza grazie al favore prestato da qualche collega compiacente che timbrava il cartellino, insomma roba già vista. Sospesi dall'ENAC i 9 dipendenti indagati, e questo ci porta pari pari all'inizio della nostra classifica, prima classifica del 2017. Cambiano gli anni, cambia molto meno la qualità e i temi di questa classifica. La classifica della settimana. Allora, faccio una premessa. Vorrei anche occuparmi dell'ATAC, però siccome dell'ATAC ho rinviato, ahimè, l'intervista, adesso la recupereremo nei prossimi giorni, a un ex dirigente che ha scritto un bellissimo libro sulla municipalizzata di Roma, non ce l'ho, non c'entra il sindaco attuale Raggi, ok? Stiamo parlando della gestione dell'ATAC in questi anni. Quindi prima che iniziate a scrivere, faccio solo notare una cosa e ne parleremo, che nonostante l'ATAC ha una voragine di debito pari a 1.300.000.000 di euro, quella che è la più grande municipalizzata d'Europa, ebbene a dicembre è arrivato Babbo Natale, nel senso che lo scorso 12 dicembre l'amministratore unico Manuel Fantasia, dopo un incontro con i sindacati e i dirigenti, insomma, ha deciso che cosa? Che bisogna liquidare i premi e gli arretrati, perché si legge che il peso decisivo del contributo professionale dei manager deve essere caratterizzato da standard sempre più elevati, valorizzazione delle eccellenze e un nuovo impianto di retribuzione incentivante. Va bene per il futuro. Però l'ATAC si impegna ad adeguare gli stipendi dei vertici dei suoi uffici a quanto previsto dal contratto nazionale e a pagare gli arretrati di chi negli anni scorsi non ha ricevuto il dovuto. E quindi il passaggio sugli obiettivi di risultato vuol dire che nel 2017, dopo 5 anni di stop, i premi di produzione verranno versati ai dirigenti entro fine aprile. Nel 2018 entro il 28 febbraio. Gli arretrati sono garantiti. La cifra degli arretrati per 50 manager sfiorerebbe i 2 milioni di euro e tale importo verrà corrisposto a ciascun dirigente entro non oltre il 31 marzo. Non so, io adesso non ci capisco molto, però quello che capisco è che tu, va bene per il futuro, stai premiando i dirigenti dell'ATAC anche per gli anni passati di un'azienda che, al di là del risanamento messo in atto dall'ex direttore generale Rettigheri, poi cacciato, lì sì c'entra la Raggi, quando è arrivata la nuova giunta, è un'azienda che è un buco colossale. Non so come si fa a prendere un dirigente per un buco. Vabbè, andiamo al quarto posto. Sì, stiamo a Roma oggi, stiamo molto a Roma, ma sono tutti elementi che al neo sindaco possono servire, perché qui riguarda l'amministrazione Alemanno, così nomi e cognomi. Gianni Alemanno annuncia a suo tempo, quando era sindaco nel 2012, presenta le 12 spazzatrici di ultima generazione. Cosa sono le spazzatrici? Sono dei mezzi che servono, mezzi elettrici che di ultima generazione, che servono a pulire le strade. Dicevo spazzatrici di ultima generazione, allora era presidente dell'AMA Benvenuti, c'era l'assessore Visconti, costate 130.000 euro l'una per un totale di 1.600.000 euro, va bene? Poi dice, perfetto, hai queste spazzatrici, adesso Roma sarà sempre più pulita. No, dopo la presentazione, già il giorno dopo la cerimonia, si fermano la maggior parte delle spazzatrici, quali motivi tecnici? La mancata predisposizione delle colonnine di ricarica a tensione monofasica e non trifasica. Traduco, non si potevano caricare. Beh, voglio dire, ma io non vorrei offendere il paese delle banane, ma dove si è visto, perché magari lì sono popoli anche seri quelli che raccolgono le banane, ma dove si è visto che un sindaco della capitale con l'assessore presenta una spesa da 1.600.000 euro di allora, 2012, e nessuno si è posto il problema di come ricarichiamo e come regalare un giocattolo bambino e non dargli le pile, te lo tira in testa, no? Ma lo capisce anche un bambino, no? Quindi manca la predisposizione delle colonnine di ricarica a tensione monofasica, un disservizio che va avanti per mesi. Alla fine, cosa decise l'AMA? Trasferisce tutto nel terminal Gianicolo, ribattezzato il polo elettrico dell'AMA, nel 2014, cioè 2 anni ci mette. Ma le spazzatrici niente, proseguono a scarto ridotto, in funzione ce n'erano al massimo 2-3 al giorno. Le richieste di riparazione cadevano nel vuoto. A un certo momento cosa succede? Che anche le 2-3 spazzatrici si sono rotte le scatole e hanno detto che siamo meno spazzatrici delle altre, e anche loro non si sono messe a lavorare, con la conseguenza che tutte le spazzatrici stanno al terminal Gianicolo e avete, vabbè, hanno speso 1.600.000 per niente e stanno lì. No, e no, e no, e no. Quello che dico, che non bisogna offendere i paesi delle banane, perché il terminal Gianicolo non è di proprietà dell'AMA, è di proprietà del Vaticano, dove viene pagato un affitto con la società dell'imprenditore C&P Service, dell'imprenditore Gianni Filoni, che gestisce il parcheggio costruito per il Giubileo 2000, di 500.000 di euro l'anno. Cioè, non le hai fatte funzionare, le hai pagate, non le hai fatte funzionare, e adesso per parcheggiare ti costano 500.000 di euro l'anno. Addirittura c'è chi ipotizza 700.000 euro all'anno, cioè stiamo parlando di 1.000 euro al giorno. Io penso che molti cittadini sarebbero disposti a ospitare queste 13 spazzatrici per molto meno, no? Ci sono tanti capannoni purtroppo inutilizzati nel paese, e adesso praticamente l'AMA è anche in ritardo nel saldare le rate. E nel bilancio del 2014 nella società di Filoni, la C&P Service, alla voce spese per godimento di beni terzi c'erano 1.217.000 euro come canone di locazione a favore dello storico di Castello della Curia Romana. Comunque, no, voglio dire una cosa, 1.600.000 per comprarle, non l'hanno fatte funzionare, 500.000 almeno all'anno per metterle lì a guardarsi tra di loro. Resto su Roma, oggi ripeto c'è molta Roma, e vengo sul tema dei vigili urbani di Roma, perché qui non c'è la vicenda di cui già ci occupammo del famoso Capodanno del 2014, in cui l'83% dei vigili romani si autocongedò dal servizio a Capodanno inviando giustificazioni, certificati medici last minute. Abbiamo sempre detto che qui c'è la responsabilità in primis del vigile, ma anche sti medici, ogni tanto l'ordine dei medici potrebbe intervenire, no? Tutti malati il 31 all'improvviso. Ora, secondo l'inchiesta, il 97% di quei certificati, io spero che vengano coinvolti anche i medici che li hanno firmati questi certificati, non erano possibili. Tra l'altro sono stati rintracciati pure 22 medici che firmarono i permessi, tutti rinviati a giudizio e accusati di aver compilato certificati irregolari. Ad ora però solo un vigile urbano è finito sotto processo con le accuse di falso e violazione dell'articolo 55. Ok, l'altro elemento per cui ne parliamo, perché adesso se si va a vedere il numero di vigili urbani a Roma che non possono svolgere lavoro sulle strade, col massimo rispetto, però insomma siamo a 700 su 5.800 che hanno presentato al comando regolare certificato di inabilità pari al 12%, uno ogni 7, quindi personale che non sta nelle strade a mettere multe per il traffico o i parcheggi a Roma, ma sta negli uffici. Per i sindacati settore è tutto regolare, e ci mancherebbe. L'età media del corpo di polizia municipale è di 53 anni, ha spiegato Stefano Giannini del SULP, comunque sindacato unitario lavoratori di polizia locale, e quindi molti hanno erni del disco, malattie cardiocircolatorie e quant'altro. Ci deve essere un grosso problema però di salute fisica a Roma, perché lo stesso ragionamento lo troviamo anche fatto nel servizio sanitario pubblico. Se si va a guardare, qui siamo al terzo posto, gli esonerati da guardie turni e contatti con i malati. Allora, secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato, a Roma il 16% degli addetti, il doppio della media nazionale, non ha rapporti con i malati. Prendo le tre grandi aziende ospedaliere: San Camillo, San Giovanni e San Filippo Neri. Ormai è un presidio San Filippo Neri e Umberto I. Comunque, allora, la percentuale di, chiamiamo così, fuga dalla front line si arriva praticamente tra congedi parentali, assenza di patologie e inabilità al 20%. Al San Camillo, che è l'ospedale più grande della capitale, su 2.800 infermieri sono quasi 500 quelli che non possono fare l'infermiere, cioè stare in corsia, fare guardie, tu devi stare con i malati. 500 su 2.800. Non è che sono assenteisti, sono impiegati nei servizi di farmacia ospedaliera, dietro le scrivanie, comunque non in corsia. Ci fu un tentativo di sanare la situazione. Nel contratto del 1998-2001 si disse che le promozioni e i premi potevano andare solo a chi era impegnato in prima linea, cioè a chi stava veramente con i malati, riconoscendo che tu stai dietro una scrivania oppure ai turni di notte, di giorno, i sabati, le domeniche con i malati, hai un compito più oneroso. Ma che, bloccato dai sindacati, il tentativo fallisce, gli scatti arrivano per tutti, e quindi a quel tempo l'aumento è di 200.000 lire in più in busta paga, e le strutture sanitarie devono appaltare all'esterno lavori che non vogliono fare alcuni di questi infermieri. Faccio un esempio: i servizi di assistenza diretta affidati all'esterno, alle cooperative sociali, ai Cococò, alle partite IVA, pesano sul servizio sanitario del Lazio per 250 milioni di euro l'anno. Vabbè, adesso vado sul meteo, la pubblicità. Siamo andati anche abbastanza veloci oggi. E andiamo al secondo e al primo posto, dove non c'è più Roma. Non c'è più Roma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Oh, andiamo al secondo posto della classifica, lasciamo e abbandoniamo tra virgolette Roma e parliamo di un tema che alcuni vorrebbero che parlassi del ponte sullo stretto di Messina. Sì, ho visto che oggi il Consiglio di Stato, cosa c'entra il ponte sullo stretto di Messina, mi chiederete. Beh, insomma, ci costa ancora 2 milioni di euro l'anno a mantenere in vita la società Stretto di Messina. È scesa sotto i 2 milioni di euro nel 2015, risulta un costo ancora rilevante, scrive oggi la Corte dei Conti, che suggerisce celerità nella liquidazione della società concessionaria. Gli unici che ci hanno guadagnato sono quelli della società. Comunque, andiamo al secondo posto invece. Perché? Perché qui vorrei parlare delle regioni italiane. Allora, il trucco per avere più fondi qual è? Si chiama gruppo regionale, gruppo politico regionale. Andiamo con alcuni esempi concreti. Andiamo alla regione Molise. Ci sono 22 consiglieri regionali, ok? Quanti gruppi consigliari autonomi ci sono su 22 consiglieri? 16. Ma come 16? Vuol dire che praticamente la maggior parte hanno solo un consigliere, di cui 10 composti da una sola persona. Ognuno è il presidente di se stesso, deve andare d'accordo con se stesso. Abbiamo già raccontato in questi anni storie di dissonanza cognitiva, di dissociazione vera e propria. Insomma, c'è il gruppo monocellulare dell'ex governatore Michele Iorio, si chiama Il Molise. Poi c'è Vittorino Facciolla, che ha invece Unione per il Molise. Vincenzo Cotugno ha il gruppo Rialzati Molise. E poi ci sarà anche il gruppo Molise la Vendetta, il ritorno di Molise, Molise la Riscossa, Molise 3. Boh. Allora, devo dire che nella scorsa legislatura i consiglieri regionali erano 30 in Molise, cioè il doppio. Ma i gruppi composti da un solo consigliere erano solo 9, sono diminuiti i consiglieri ma aumentati i gruppi monocellulari. In Italia ci sono ben 62 gruppi politici regionali che hanno un unico presidente di se stesso. Anche se alcune regioni che sulla carta le avevano aboliti, anche loro se le sono viste ritornare. Penso al Consiglio regionale del Lazio. Deliberò il divieto, il suo presidente all'epoca, Mario Bruzzese, esultò: benissimo, abbiamo eliminato di fatto un costo della politica. Allora c'erano 70 consiglieri regionali in Lazio e gruppi monocellulari erano solo 8. Oggi sono 50 consiglieri e ce ne sono 6. Praticamente ogni lista ha un gruppo. C'è la destra, che ha un unico componente, Francesco Storace, da non confondere con la lista Storace, che ha una solo componente, ma si chiama Olimpia Tarzia o Tarzia. Poi c'è il gruppo misto, dove Pietro Sbardella si mischia con se stesso, perché infatti il gruppo misto di una sola persona, ma che è un sagittario, un centauro, se ti mischi con chi? Con il tuo alter ego, con l'ego, boh, è misto perché se sei solo tu? Qui andiamo anche veramente contro l'italiano, dove ero arrivato? Ah sì, Sbardella. Poi c'è la lista civica Buongiorno, che è affidata a Marino Fardelli. Cioè, si chiama Buongiorno, ma non c'è la Giulia Buongiorno. Boh, misteri dei gruppi consigliari regionali di questo paese. In Abruzzo, la creatività al potere, riducono i consiglieri regionali da 40 a 30, ma i gruppi monocellulari salgono del 50%, da 4 a 6. In Veneto, la lista Tosi per il Veneto ha 3 consiglieri, però Giovanna Negro è l'unica rappresentante della lista del gruppo Il Vento del Fare Flavio Tosi. A parte che l'italiano non si può sentire, Il Vento del Fare Flavio Tosi, ma che vuol dire? Il Vento del Fare Flavio Tosi, delimitare Flavio Tosi, Il Vento fare Il Vento di Flavio Tosi, Vento fare Flavio Tosi, Vento Tosi Flavio fare, ma che cos'è sta lista? Insomma, Tosi non c'è, che fa il sindaco a Verona, vabbè. Anche perché ogni gruppo consigliare, non so, nel Lazio può avere fino a 3 collaboratori più l'esperto di comunicazione. Ma l'esperto di comunicazione è uno psicologo, di uno che ha un gruppo misto c'è solo lui, o di uno che ha il nome di una che non c'è, è uno psicologo l'esperto di comunicazione, massima solidarietà l'esperto di comunicazione, e tra l'altro a cui viene riconosciuto il diritto al contratto giornalistico, emendamento ad hoc della regione Lazio, urgentissimo immagino. Però, mancano i due punti, forse Il Vento del Fare, 2 punti, Flavio Tosi, oppure potremmo mettere Il Vento, 2 punti, del Fare Flavio Tosi, o il 2 punti, Vento del Fare Flavio Tosi, o Il Vento del Fare Flavio, 2 punti, Tosi. Qui si aprono vari problemi anche di esegetica, che affronteremo più avanti. Andiamo invece al primo posto e al vincitore. And the winner is... la Regione Sicilia, tantissimo che mancava, premo subito il 2017, bene, l'Assemblea Regionale Siciliana, il Parlamentino Siciliano. Ora, mi raccomando, non c'è una musica storico-evocativa, perché qua io devo andare al 1947. Perché? È impazzito? No, perché attenzione, l'Assemblea Regionale Siciliana paga ogni anno 18 milioni di euro di vitalizi. Sempre uguali. Ora, se paga di questi 18 milioni di vitalizi, 7 milioni di euro l'anno a assegni di reversibilità. Ora, già il vitalizio è una bestialità. Tu hai fatto il consigliere regionale, hai preso lo stipendio, quello che vuoi, ma non è un lavoro, l'abbiamo spiegato 1000 volte. Ti candidi, non te l'ha chiesto il medico, vuoi fare un lavoro per la collettività, vieni pagato, hai rimborsi, quant'altro, non rompere scatole col vitalizio. Vitalizio è per la pensione di chi ha lavorato tutta la vita, non per chi decide di candidarsi. Non è un lavoro, cavolo, sei al servizio della collettività, ti diamo la diaria, quello che vuoi, ma non è un lavoro, ok? Allora, di questi 18 milioni che l'Assemblea Regionale Siciliana paga ai vitalizi, 7 milioni li paga ai parenti, perché sono assegni di reversibilità, 130 beneficiari, 11 in più di quelli di 2 anni fa. Beh, in effetti, ogni mese 600.000 euro. E qui inizia. Posso avere una musica classica, qualcosa, insomma, che non sia... perché devo leggere una cosa anche abbastanza intensa. Devo riportare tutti quelli che hanno meno di 60 anni e 70 anni a un'Italia che, insomma, non esiste più. Allora, ricorre tra l'altro il 70° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Regionale Siciliana. Ci sono vitalizi pagati a 9 parenti di deputati presenti quel giorno, cioè che inaugurarono l'Assemblea Regionale Siciliana a Palazzo dei Normanni. Andiamo con nome. La figlia di Ignazio Adamo, con massimo rispetto, marsalese, eletto per il Blocco del Popolo e nell'assemblea regionale siciliana fino al 1955 percepisce tuttora la figlia, non si capisce, 3.000 euro al mese di pensione, non è pochissimo. Anna Maria Cacciola, ah, oh, siamo arrivati a... Anna Maria Cacciola è la discendente in linea diretta, mamma mia, di Natale Cacciola, che nacque in provincia di Messina prima del terremoto, cioè inizio secolo, prima del Novecento, e nel 47 si candidò per il partito monarchico. Cioè noi stiamo pagando il vitalizio, con massimo rispetto, a una discendente di uno che nel 47 si è candidato per il partito monarchico. Ma non potremmo andare un po' più indietro e allargarci a De Pretis, alla destra storica, a Giolitti, a Crispi, no? Ma dico, perché fermarsi a 47? Comunque, il papà stette 4 anni in Parlamento e grazie a questo la signora Cacciola percepisce un vitalizio di oltre 2.000 euro al mese, che è una pensione della Madonna per molti italiani. Per aver fatto che cosa? Per aver avuto un papà che per 4 anni è stato in Parlamento all'Assemblea regionale siciliana nel partito monarchico. Non c'è più un re, non c'era più nella monarchia, e però lui bene ancora vitalizio. Elios Costa, altro esponente trapanese del blocco del popolo, che tuttora, grazie al fatto che lui è stato nell'Assemblea regionale siciliana, la vedova ricepisce ogni mese una pensione da 2.500 euro. Pietro Di Cara restò in Parlamento dal 1947 al 55. La vedova, tuttora titolare della Segno di Reversibilità, Francesco Lanza di Scalea, esponente del blocco liberale democratico qualunquista, no, qualunquista in questo caso era il nome, l'uomo qualunque, qualcuno se lo ricorderà, non è un aggettivo. Lui stette solo 3 anni, però la moglie tuttora piglia 2.000 euro di pensione di reversibilità. Guarda, è un paese pazzesco. La vedova di Michele Semeraro, che rappresentava il blocco del popolo, anche lei ha la reversibilità. Poi c'è anche il figlio di Giuseppe Alessi, che fu il primo presidente della regione siciliana, e poi c'è anche la moglie di Giuseppe D'Angelo, esponente della DC nel primo governo Alessi, che restò all'assemblea. Faccio notare che ci sono 180 ex onorevoli che in vita che hanno i vitalizi diretti, cioè prendono per aver fatto un certo periodo dell'Assemblea regionale siciliana ancora la pensione, 10 milioni l'anno, cioè 10 milioni se ne vanno per i vitalizi diretti all'anno, 7 milioni se ne vanno per le pensioni di reversibilità, per i vitalizi di reversibilità. Tra cui il caso più bello è quello di Salvatore Caltagirone, esponente di Alleanza Nazionale, il 12 aprile 2001 stette poche settimane, fece 5 sedute, subentrò il collega Pippo Scalia, 5 sedute prima delle elezioni, cioè arriva proprio in zona Cesarini, ma grazie a questo ha un vitalizio di 3.000 euro. Ma se vi sembra normale, poi sentiamo Capanna dire i vitalizi sono dovuti, ma cioè è tutto normale. Vorrei chiudere con, e qui siamo a Nobel, con Franco Bisignano, perché lui non ha mai messo piede all'Assemblea regionale siciliana, si è candidato nel 1976 con il Movimento Sociale, fu il primo dei non eletti, e dice vabbè, ti sono andata male, primo non... no, boia chi molla, non si arrese, iniziò a farsi chiamare onorevole, anche se lui era solo il sindaco del minuscolo comune di Furnari, e inizia una guerra a colpi di carta bollata contro Antonio Fede, eletto al suo posto ma non residente in Sicilia. Ma guardate, tutto vero, nel 96, 20 anni dopo, il tribunale gli dà ragione, solo che la legislatura si era conclusa 15 anni prima, caro mio, non c'era neanche più Movimento Sociale, Destra Nazionale, non c'era più niente, non c'entra. A Bisignano vengono concessi comunque la liquidazione e il vitalizio, che dopo la morte è passato alla vedova. Interessante, interessante, sì, sarebbe interessante capire fino a che linea di parentela è esteso vitalizio. Qui andiamo su Levi-Strauss, cioè se il secondo cugino della prima moglie può avere vitalizio o invece è solo limitato al primo fratello del terzo cognato. Ci occuperemo anche di questo, inviteremo un antropologo per capire, diciamo, come i rapporti e i legami di parentela possono agire sul vitalizio. Pietro Rota, presidente Fondazione Orobix, buonasera. Buonasera. Allora, Orobix, sembra Asterix, Orobix. Orobix è, da questo punto di vista, immagino a Bergamo, vero? No. Esatto, oh. Esatto. Dopo il traffico ci racconta cos'è. Focus Economia. Allora, cosa fa l'Orobix, quando è nata e in quanti siete? E chi vi ha dato i soldi? Allora, Orobix ingegnerizza soluzioni di intelligenza artificiale, cioè mette a terra tecniche di intelligenza artificiale che apprendono dall'esperienza che è insita nei dati e le prova a applicare in diversi campi. Quanti siete e dove siete, e chi vi ha dato i soldi? Noi siamo a Bergamo, siamo in 11 persone in questo momento, i soldi sono i nostri in realtà. Ma li avete chiesto alle banche questi soldi? Perché ogni volta chiedo la stessa cosa, alcune volte sì, altre no. Cioè li avevate già, sì. Non avevate bisogno, non ve li hanno dati? No, diciamo inizialmente siamo nati con i nostri soldi, poi a un certo punto insomma avevamo un target di crescita, quindi li abbiamo chiesti, sì ce li hanno anche dati. Oh, bene. In questo senso siamo... Senta, ma quello che voi fate, cioè soluzioni di software che sfruttano l'intelligenza artificiale, esatto. Che ce n'è poca nella nostra classifica di intelligenza sia artificiale che naturale, però è vero che voi avete lavorato anche su un sistema per la gestione di una malattia genetica renale? Ci faccia capire cosa fate? Sì, esatto, questo è stato è tuttora ancora uno dei nostri primi progetti. Lavoriamo con questa farmaceutica statunitense che ci ha sottoposto questo problema. Avevano molti dati che provenivano da circa 3.000 casi che avevano analizzato all'interno di un grosso studio clinico, e questo ovviamente è la potenza, diciamo, dell'applicabilità delle soluzioni, avere ovviamente tanti dati a disposizione, anche se la sfida poi è saper usare le stesse tecniche anche dove i dati sono meno corposi. E sostanzialmente abbiamo, diciamo, implementato un sistema che permette a loro, che viene dato da loro ai clinici per vedere effettivamente come il farmaco che loro hanno, la molecola, il farmaco che loro veicolano, come si comporta e com'è l'evoluzione della malattia all'interno del paziente, soprattutto andando ad attingere dalla similarità del comportamento che quella malattia ha sui vicini del paziente che il singolo clinico ha davanti, perché poi una delle vere dei veri sottostanti di potenza dell'intelligenza artificiale è proprio quella di aumentare l'esperienza del singolo, e quindi il singolo clinico che ha davanti quel paziente ha la possibilità invece di avere uno strumento artificiale, un'intelligenza che insegna delle cose che vengono dall'esperienza di altri. Ecco, senta, voi quanto avete fatturato, visto che siete in 11, e quali prospettive avete? Quest'anno siamo a 600.000 euro, questo è il nostro fatturato, siamo cresciuti lenti ma abbastanza costanti in questi anni, e adesso prevediamo un bel salto, perché l'anno prossimo prevediamo di superare il milione, insomma la crescita sta diventando importante. E assumerete importante. Anche qualcuno in più? Sì, noi quella è la primissima cosa. Per noi. Senta, i fondatori siete lei, cioè Pietro Rota e... Io e l'ingegner Luca Antini, esatto. Quanti anni avete? Noi ne abbiamo 41, siamo i più vecchi. E gli altri sono i più giovani? Il team è giovane, sì. Siete nati nel 2009, mi diceva? Noi nel 2009, sì. Abbiamo fatto già le nostre esperienze. E un'ultima domanda, dov'è che fatturate? Cioè Italia o estero? Soprattutto estero ancora, anche se vedo dall'anno prossimo una preponderanza sull'Italia, anche legata al tema che noi stiamo puntando molto all'industria 4.0. Ci sono veramente tante possibilità in quell'ambito per l'intelligenza artificiale. Abbiamo già fatto dei progetti molto interessanti, stiamo applicando nell'automotive queste tecniche in maniera molto... Allora, in bocca al lupo a lei, come sempre, all'ingegnere Antiga, e soprattutto anche agli 11 dipendenti, sperando che diventino appunto .15. Volete che pubblichiamo la classifica sulla pagina di Facebook, sul sito della radio? Sì, inizieremo a pubblicare le varie classifiche, come faccio? Va bene, pubblicheremo le classifiche. Forte, nevicata, Udine, mi scrive un ascoltatore. Sì, ci sono gli avvistatori di neve, visto che me lo dice. Facciamo anche nella classifica, individuammo anche i 20 avvistatori di neve pagati, mi ricordo, 3-4 anni fa dalla regione Friuli. Mi sembra che non ci siano più. Dovevano uscire di casa, guardare che c'è la neve, dire c'è la neve, e questo fa l'avvistatore di neve. Io invece che faccio l'avvistatore di GR24, dico che c'è il GR24 e ci risentiamo dopo GR. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. Diciassette e otto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, chiusa la classifica, capito? La pubblicheremo la classifica. Sì, adesso non posso fare conto di quanti euro abbiamo denunciato nelle classifiche passate, ma io non penso che non serva, perlomeno i nomi e cognomi li facciamo, poi non ci possiamo mica sostituire alla politica, alla magistratura, alla Corte dei Conti, perché no? Devo dire che molte volte sono anche indagini della Corte dei Conti, della Ragioneria Generale dello Stato, quelle che, da cui traiamo le notizie, per cui non è vero che... Comunque, andiamo avanti. Con la borsa oggi più calma Fiat, meno calma, ma non si può parlare di tonfo Renault, per ipotesi avanzate che anche Renault possa finire in un'inchiesta, in questo caso francese, non americana, sulle emissioni delle auto diesel. Andiamo con ordine. Allora, Fiat recupera il 4,60% dopo il tonfo pesante di ieri, il 15%. Exor recupera la controllante il 6,70%. Il miglior titolo è UbiBanca, più 9,60%. Bene, oggi tutte le banche, a partire da quelle popolari. Di negativo c'è pochissimo oggi, solo Leonardo meno 0,20%. Il FTSE MIB chiude la settimana con un rialzo dell'1,90%. Parigi più 1,20%, Francoforte più 1, Londra più 0,60%, Dow Jones invariato. E allora, come sempre con Radio Core, il Sole 24 Ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dunque, le borse europee impostate, il comparto bancario e UBI, visto che ieri è arrivata l'offerta, formalmente l'offerta per le tre banche risanate, quindi cari Chieti, Marche e Etruria, mentre cari Ferrara, come raccontavamo in apertura del programma, dovrebbe andare a Biper, hanno tempo fino, mi sembra, a metà gennaio, adesso a metà gennaio già ci siamo, hanno ancora 10 giorni di tempo. Adesso vi rileggo la notizia. Il motivo dei rialzi delle banche popolari, perché non ci sono solo quelle citate, cioè UBI, c'è Biper che guadagna il 6, Banco BPM che guadagna il 5, Mediobanca il 4, Mediolanum il 3,60, Unicredit il 3,5. Beh, oggi è stata una giornata vivace per tutto il settore bancario in Europa, anche perché le indicazioni che sono arrivate poi dagli Stati Uniti nel pomeriggio, che hanno permesso a lungo delle banche innanzitutto e di tutti gli indici a cavallo della variazione del pomeriggio della seduta, sono state positive per quanto riguarda i dati trimestrali forniti da Bank of America e da JP Morgan, un po' meno quelli di Wells Fargo, ma questa ha permesso alle banche italiane, all'indice delle banche italiane, di toccare i massimi da giugno, e in particolare ancora una volta UbiBanca di mettersi in evidenza, anche perché i target che la banca ha fornito, ieri l'amministratore delegato Massià ha fornito a valle dell'offerta per l'acquisto delle tre banche che tu ricordavi, sono ritenuti particolarmente aggressivi, 1,2 miliardi di utili al 2020, e c'è attesa anche per quella che sarà l'operazione di Biper, ma oltre alle popolari si è mossa bene Mediobanca, si è mossa bene anche Unicredit all'indomani del via libera per l'aumento di capitale a 13 miliardi, aumento di capitale che dovrebbe partire intorno alla metà del mese di febbraio e che sembra riscontrare, almeno nelle parole di Mustier e da qualche indiscrezione sul mercato, l'interesse da parte degli investitori internazionali e italiani. Allora, di Renault abbiamo detto, alla fine c'è del 5%, ma andando sui titoli di maggiore capitalizzazione, Unicredit tu ricordavi, Mediolanum, qui c'è un ricorso di Fininvest alla Corte di Giustizia Europea per il fatto che la Banca Centrale Europea abbia obbligato Fininvest a scendere in banca Mediolanum per i requisiti di onorabilità di Silvio Berlusconi. Esattamente, è un momento positivo per il settore del risparmio gestito. Oltre a Banca Mediolanum si è mossa bene anche Azimut, per esempio, dopo i dati sulla raccolta del mese di dicembre complessivamente del 2016. A metà giornata, appunto, è uscita la notizia secondo cui Silvio Berlusconi e Fininvest hanno fatto ricorso contro il provvedimento della BCE, che a ottobre, tirando fuori una questione già bocciata dal Consiglio di Stato in Italia, ma riproposta dalla Banca d'Italia, la BCE, dicevo, ha ritenuto illegittimo, si è opposta al fatto che Silvio Berlusconi detenga una quota qualificata in un istituto di credito come Banca Mediolanum, e quindi lo hanno sterilizzato per il provvedimento della Banca d'Italia i diritti di voto al di sopra del 9,9%, perché sopra il 10% per avere una posizione oltre il 10% in un istituto bancario ci vuole l'autorizzazione di Banca d'Italia e della BCE, nei casi vigilati della BCE, per possedere questa quota. Quindi attualmente il mercato crede che non Fininvest non debba procedere ad andare a vendere la quota eccedente il 9%. Allora, devo dare una notizia che riguarda di nuovo la cassa, l'ex o il crack del credito cooperativo fiorentino, quello che presieduto da Denis Verdini. Abbiamo raccontato in apertura che Monte dei Paschi ha chiesto un risarcimento di 48 milioni nel processo, e poi altre richieste sono arrivate anche da BNL, Unipol, Popolare di Vicenza. Ma adesso leggo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il risarcimento dei danni per la presunta truffa sui fondi dell'editoria pari a 42 milioni di euro. Il conteggio è ben più alto dei 23 milioni percepiti dal 2005-2009 dai giornali di Denis Verdini, rivalutati con gli interessi a 28 milioni, in più un risarcimento danni pari al 50%. L'Avvocatura dello Stato ha chiesto il sequestro conservativo di 23 milioni di beni equivalenti già sotto sequestro penale. Insomma, sono problemi per Verdini, ma anche se poi invece sul crack il risarcimento chiesto dalle banche è riferito ai costruttori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, più altri coimputati nel processo del crack del credito cooperativo fiorentino. Andiamo avanti invece con i titoli, ma la notizia era appena uscita e andava data. Mediaset mi sembra oggi più tranquilla rispetto più 0,30%. Ho visto muoversi invece Mondadori. Sì, Mondadori è tornata a scattare, ha guadagnato il 5%, il titolo viaggia ai massimi da circa due anni, cioè da oltre due anni, perché siamo a maggio, aprile-maggio del 2014, chiaramente tutte le ricostruzioni, in buona parte fantasiose, probabilmente fantasiose, sulla possibilità che il riassetto Mediaset contagi anche il gruppo editoriale della famiglia Berlusconi, sono appunto ricostruzioni difficili da sostenere, perché il controllo su Mondadori è molto più forte, supera il 50% da parte di Fininvest, ma la possibilità, la vivacità di Mondadori, soprattutto sul fronte delle acquisizioni nel corso del 2016, sta spingendo gli operatori a credere che il titolo abbia ancora possibilità di crescita, e che soprattutto ci possono essere delle altre opportunità nel corso del 2017. Mediaset invece, come tu dicevi, al palo. Mercoledì è attesa la presentazione a Londra di queste linee strategiche del piano industriale al 2020, e si attende sempre una mossa di Vivendi. Una notizia interessante che è emersa dalle comunicazioni di Vivendi alla borsa sulle operazioni effettuate a dicembre: Vivendi ha speso tra il 13 e il 22 dicembre, quindi dopo aver annunciato l'acquisto del primo 3,3%, circa 1,2 miliardi di euro per acquistare i titoli Mediaset. Sappiamo che si è portata alle soglie del 30%. Allora, migliori e peggiori in assoluto, dicevo, gruppo West Italia più 19, Zucchi più 9,70, Ubi Banca dicevamo più 9,50, Save più 9,20, Fronto Posto, Sintesi meno 13%, Bastoggi meno 6, appunto Renault meno 5%, Lucisana Media Group meno 5%. Grazie Andrea Fontana e buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills. Allora, qui il sogno l'abbiamo avuto, era una speranza, perché quasi 10 anni fa, quando scoppiò, in realtà iniziò nell'estate del 2007, chi si ricorda Focus Economia, la crisi di Bear Stearns, e si iniziò a parlare di mutui subprime per la prima volta. Iniziamo a capire che c'erano dei mutui dati a persone che mai li avrebbero potuti ripagare, che venivano poi impacchettati e dati ad altri istituti, le cartolarizzazioni, che si scommetteva anche con dei futures sulle possibilità di fallimento di un creditore, e poi default swaps e quant'altro. Scoprimo un mondo fatto di derivati, di carta su carta, di deliri di onnipotenza, di finanza che aveva perso ogni controllo con la realtà. E il sogno qual era, però, che era più una speranza? Devo fermarmi un secondo perché è appena arrivata una notizia. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo di inchiesta per aggiotaggio sulla fusione tra Banca Popolare di Milano e Banca Popolare, blitz delle fiamme gialle, la Guardia di Finanza nelle sedi di Milano e Verona. Vabbè, vi faremo sapere. Comunque, dicevo, il sogno qual era quasi 10 anni fa? Era che questa crisi sarebbe finita, la parte finanziaria aveva creato danni, si era spento il mondo. Purtroppo abbiamo scoperto che la crisi finanziaria era solo, diciamo, un accessorio, era una conseguenza, era un elemento grave, ma non era quello che stava capitando. Le crisi, l'abbiamo spiegato molte volte, durano un periodo limitato di tempo. Tu non puoi parlare di crisi, infatti la chiamiamo grande crisi, quando è 10 anni che ci sei dentro. Quindi si chiamano mutamenti strutturali, rivoluzioni, che fanno morti e feriti, che avvantaggiano alcuni rispetto ad altri, ma non sono crisi. Le crisi hanno dei picchi anche di crollo, ma poi di recupero, e si tornano in un breve tempo sopra il livello da cui si era partiti. Così non è mai stato, perché dopo 10 anni, e lo dico perché il Sole 24 Ore oggi lancia un'inchiesta, un viaggio nei 10 anni della grande crisi, dal 2008 al 2017, nei 10 anni non è intanto la finanza, poi sarà anche ripresa, ma nel frattempo è cambiato il mondo era già in cambiamento prima. Si è spostato l'asse produttivo, già lo stava facendo, ma ancora di più. Si è spostato l'asse della ricchezza, sono cambiati i paradigmi sui consumi. Parliamo ormai da anni di neosobrietà, e basta conoscere un diciottenne per capire cosa questo voglia dire rispetto a un diciottenne degli anni Ottanta. È cambiato il valore aggiunto con cui guardiamo le cose, è cambiata anche la capacità del manifatturiero di produrre valore aggiunto. Si va molto di più sui centri di ricerca e meno sulla manifattura di base. Insomma, è cambiato il mondo, e quindi la crisi è solo un capitolo di questo cambiamento, che forse l'ha accelerata. È cambiato il potere su scala geopolitica e geofinanziaria. È chiaro che non riusciamo a trattare tutto questo in questo ultimo approfondimento, ma lo dico per introdurre la prima parte di questo viaggio d'inchiesta del Sole 24 Ore con Paolo Bricco, che oggi su Sole 24 Ore firma un'intera paginata andando a guardare cosa è successo all'Italia. Paolo, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, dici innanzitutto che cosa prevederanno le varie puntate di questo viaggio. Sì, la puntata che è presente sul giornale di oggi è una grande puntata introduttiva, uno scenario che si occupa soprattutto degli elementi macroeconomici, cioè in questi 10 anni l'Italia, perché l'Italia è rimasta ferma mentre il resto del mondo alla fine di questi 10 anni è ritornato a correre. O è ritornato quantomeno sui livelli pre-2008. A sviluppare per esempio produttività e capacità di export per quanto concerne gli Stati Uniti e anche in parte l'area euro maggiore. Rispetto allo stesso 2008. Quindi questa è la prima puntata. Poi dalla seconda puntata in avanti invece il meccanismo è quello di raccontare, di prendere un tema complicato, difficile, scabroso, italiano, e metterlo in comparazione con un tema affine di un altro paese. Per esempio, sul Sole 24 Ore di domani ci sarà il dilemma nord-sud per l'Italia, e contestualmente la rapidità con cui la ex DDR, la Germania dell'Est, è stata riassorbita e portata a livelli abbastanza comparabili a quelli della Germania dell'Ovest in pochi lustri. Allora, qui vi dico una cosa: è vero che la Germania ha potuto fare la riunificazione perché non c'era il patto di Maastricht, perché sennò col cavolo che potevi fare quel deficit lì, però diciamocela tutta, noi abbiamo avuto anche la banca del Mezzogiorno. Quindi, a parità di cose, non c'è giustificazione sul perché, o meglio, c'è, si capisce, sul perché il nostro mezzogiorno resti ancora inviluppato in reti clientelari, una incapacità di disegnare un futuro anche per se stesso, assumendosi in primo luogo responsabilità sul futuro, non chiedendo sempre agli altri di fare qualcosa, e invece i tedeschi dell'est che venivano da 40 anni di comunismo vero e duro e puro, dove non c'era idea di capitale e di produttività e di nulla e di merito, si siano riusciti a riadattare in un tempo così, così veloce. A livello di numeri, il confronto internazionale su quali indicatori ci dice che invece noi siamo rimasti ancora indietro, lasciata la produzione industriale, ovvio, o il PIL, rispetto a altri paesi che pur con le difficoltà si sono un po' risanati, ripuliti e hanno ripreso a crescere, anche se non pur con difficoltà, perché la competizione globale vale per tutti, non solo per l'Italia. Beh, dal punto di vista, diciamo, tecno-industriale, noi siamo rimasti piatti sulla produttività, sugli investimenti, mentre sistemi industriali simili e comparabili ai nostri, in primis ad esempio la Francia, la Germania e lo stesso Giappone, invece sono riusciti a ritornare sopra i livelli del 2008. Abbiamo compiuto un grosso lavoro di dataset per quanto concerne la prima puntata, il primo scenario. In particolare ci ha aiutato il nostro chief economist del Sole 24 Ore, Riccardo Sorrentino, che ha lavorato tantissimo sulle principali banche dati internazionali per poter avere davvero una visione quantitativa di che cosa è successo in questi 10 anni, che ci ha permesso di pubblicare su 2 pagine, credo, una somma di tutti gli indicatori principali. E la cosa che colpisce è prima di tutto la produttività. Noi siamo l'unico paese fra quelli che abbiamo preso in considerazione che dopo 10 anni riesce quest'anno a tornare agli stessi livelli del 2008, faticosamente. Gli altri stanno tutti sopra. Per quanto concerne invece, ad esempio, gli investimenti, riusciamo ad avere un leggero abbrivio positivo negli ultimissimi anni, ma gli altri sono esplosi. Tutto questo però viene inquadrato in questa prima puntata e poi anche nelle successive puntate di questo lungo viaggio con un'ottica di lungo periodo, perché quello che è successo in Italia negli ultimi 10 anni, cioè il fatto che siamo diventati più piccoli, meno influenti e più marginali, è direttamente collegato a quello che è successo anche negli ultimi 25 anni. Cioè il nostro tentativo è quello di metterlo dentro uno scenario di lungo periodo. Che cosa è successo? È successo che con la fine del Novecento l'Italia è diventata meno importante, meno strategica. Con la fine della guerra fredda, soprattutto. Esatto, noi prima eravamo un paese centrale dentro al grande gioco internazionale. Eravamo il paese di confine col socialismo reale, eravamo il paese di cerniera fra nord e sud. Sì, beh, c'era anche un sistema politico bloccato, il fattore casa, non posso andare, già abbiamo fatto la classifica degli onorevoli del patto di chi becca ancora il vitalizio sul prete monarchico, però posso tornare a Ronchey e al fattore K, però siamo il paese. Il problema è che noi siamo usciti da quella cosa lì e dobbiamo riuscire a trovare un'altra collocazione. In quel mondo lì noi eravamo qualcosa di importante, con i nostri limiti, con le nostre difficoltà, con la nostra incapacità di riportare a una vera modernizzazione del sud, con la nostra super evasione sociale. C'era stata anche un'Italia che la lira aveva preso l'Oscar di moneta più stabile al mondo. Basta vedere quanto ci abbiamo messo a costruire, però sai Paolo, poi io devo andare anche a precipitare. Quando tu vedi quanto ci abbiamo messo a costruire l'autostrada del sole, gioiello invidiato, e quanto ci abbiamo messo a fare la Salerno-Reggio Calabria, cioè tu capisci che c'è un'Italia meno seria, più ladra, che vive di rendita, di posizionamenti politici, di interscambi tra e malaffare, posizionamento politico, di inefficienze che non si vuole sanare. Insomma, lo capisci anche lì. Adesso, sempre italiani erano quelli degli anni 60, però forse con un maggior rigore, una maggiore attenzione anche alle prospettive, al generare per i figli maggior ricchezza. Detto questo, poi l'Italia è inserita in un modello globale ed è l'Europa stessa che si è marginalizzata. Esatto. E quindi il problema è proprio questo, è riuscire a capire per noi come riuscire a collocarci in un mondo che è completamente diverso rispetto a quello di 20-25 anni fa. Dico a chi mi sta scrivendo sull'euro, guardate che in questo caso l'euro non c'entra nulla, perché stiamo paragonando paesi europei che hanno l'euro. Allora, ha un senso se tu mi dici l'euro avvantaggia, la gestione dell'Europa ha avvantaggiato la Germania, lo abbiamo detto 1000 volte in questi anni, ma dare la colpa al termometro, all'euro, della febbre, mi sembra un po' sbagliato. Cioè stiamo paragonando Italia con Francia, con Germania, con Spagna, poi certo che c'è anche la Cina, il Giappone e quant'altro, però attenzione che qui l'euro c'era anche nel 2008, c'era anche nel 2005, c'era anche nel 2004. Ma da questo punto di vista l'euro è quasi un elemento che uniforma e rende comparabili i casi. Certo. Faccio un esempio, un'altra puntata sarà quella fra Italia e Francia, in cui si cercherà di capire come mai in Francia si ha un'industria pubblica per certi versi grande e forte, però anche con delle debolezze, e un sistema bancario fortissimo che riesce a tenere in piedi un'industria privata vacillante. Al contrario, in Italia invece abbiamo grandi medie imprese, un'elite fortissima, molto migliore rispetto a quella francese, e poi un sistema bancario e finanziario che non riesce in estrema difficoltà. Da qui il fatto anche poi le campagne francesi in Italia. Vabbè, certo, perché hanno massa e fanno massa critica. Ecco, quindi l'idea dell'inchiesta è proprio questa, quello di mettere in gioco paesi diversi su temi. Ma noi rispetto alla Francia abbiamo imprese più dinamiche, più brave, più in grado di competere, che fanno meglio sull'export. Poi ci mancano i grandi nomi, ci manca il sistema bancario che le appoggi, e ci manca anche qualche grande partecipata in grado di essere presente su questi mercati. Comunque torneremo a parlare di questa inchiesta molto bella che è aperta oggi su Sole 24 Ore. Grazie Paolo Bricco, come ringrazio come ogni venerdì Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per l'assistenza al programma e in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.